7. Ascolta i dialoghi e indica l'azione. 1. Senti freddo? No, grazie. Sto bene. 2. Sentite anche voi questo rumore? No? Quale rumore? Ah, sì, questo rumore. Che cosa è? 3. Vi sentite bene oggi? Sì, ci sentiamo in forma e siamo pronti per la passeggiata in montagna. 4. Potresti accendere il microfono? Non sentiamo la tua voce. Certo, chiedo scusa.